adesso allora, superato. Allora, Galliani dice che io so Giotto e lui Cimabue. Esatto. Io invece so Rocky Balboa e lui Adriano! Dare moneta, vedere il cammello! Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Partito molto bene in 3-3 Van Bromel. Usain Bolt rimonta Justin Gatlin. Usain Bolt, fantastici tutte e due. Usain Bolt che anche se perderà e vedremo il photo finish, ha ritrovato convinzione. Vediamo chi ha vinto. Perché se avesse vinto lui sarebbe una cosa fantastica. Proprio perché tutti davano per vincitore l'altro. Vediamo se arriva Bolt. 9,79. Oh, sai Carlo qual è il bello di questo pomeriggio, oltre al fatto che siamo tornati in onda? A proposito, 800 24 00 24, siamo qui fino alle 19 rigorosamente in diretta, quindi prendete nota e prenotatevi subito 800 24 00 24, perché oggi cerchiamo di passarne il più possibile. Sì. La cosa bella, Carlo, è che abbiamo una super domenica da raccontare. C'è Usain Bolt che ha vinto il terzo titolo mondiale sui 100 metri, è anche campione olimpico in carica, ha il record del mondo. Però io credo che quella di oggi sia forse la vittoria più bella della sì, sua anche carriera. Perché, anche perché oggi, onestamente, viste le semifinali, non partiva da favorito, perché Gatlin aveva corso la semifinale in 7,77, era andato come un missile, probabilmente anche troppo forte, magari ha sbagliato nel dosare le energie. Bolt invece aveva corso piuttosto male la semifinale, perdendo anche il passo dopo quattro appoggi. Sembrava proprio che quella gamba un po' malconcia non reggesse, quindi oggi non partiva da favorito in questa finale. È stata una gara straordinaria, 7,79, 7,80, fai tu, cioè la differenza è un nulla, però Bolt è di nuovo campione del mondo e credo, hai ragione, credo sia stata la vittoria più bella per lui, perché appunto correva oggi contro pronostico. Sì, la lezione è attenzione quando volete dare per sepolti dei fuoriclasse, poi ti capita sottovalutare l'orgoglio del campione, che poi vengano fuori, così come oggi ha fatto Usain Bolt, come stava facendo Sebastian Vettel, perché ha fatto una gara meravigliosa. Sì, beh, però lì la sensazione che resta invece è quella del sollievo, devo dire la verità, perché è stato un incidente di quelli che potevano davvero provocare, potevamo essere qui a parlare di altre cose, insomma. Lo stesso Vettel, arrabbiato come una iena dopo la gara, l'ha detto: se mi scoppiava la gomma 300 metri prima rispetto a quando è successo, mi schiantavo 200 metri prima, mi schiantava 300 all'ora contro un muro. Sì. E non ero qui a raccontare sì, queste cose. La raccontiamo cose. Per chi non l'ha vista. Vettel che ha fatto una sola sosta, partiva dall'ottava posizione, quindi dopo un sabato drammatico sportivamente parlando per le Ferrari, ha scelto di fare una sola sosta, era risalito fino alla terza posizione, ma evidentemente stava guidando sulle uova. Sì. E a 11 km esatti dal traguardo finale di Spa la sua gomma posteriore destra è letteralmente esplosa, con tanto di polemica, perché Vettel ha detto quelle parole, la Pirelli gli ha risposto, ha detto si tratta di un problema di usura, lui ha voluto fare 28 giri, gli altri in media ne hanno fatti 20 e quindi la gomma era usurata. Sì, resta il fatto che Vettel è il più bravo di tutti, Hamilton compreso, nel gestire le risorse della macchina. Cioè è un pilota che normalmente non consuma niente in termini di usura della macchina, dei pneumatici eccetera. È chiaro che oggi doveva rischiare perché partiva praticamente da casa sua, dall'ottavo posto, e quindi ha corso questo rischio. Però vedere una gomma esplodere, perché non si è trattato di foratura come aveva detto, arriva bene, si è trattato di una consunzione della gomma, è letteralmente esplosa. Dato bene Raikkonen, ma bene anche la Ferrari che ci ha provato. Sì, insomma, ci vuole coraggio quando sei inferiore come oggi alla Mercedes. C'è un amico che scrive: prima di iniziare a glorificare Bolt, vorrei ricordare i sospetti di Sandro Donati, perché poi dietro l'Atletica, e a maggior ragione in questo momento, ci sono mille sospetti di doping. Però oggi noi stiamo raccontando quello che abbiamo visto, se poi ci racconteranno una storia diversa ne prenderemo atto. Possiamo parlare di sospetti, quello che sappiamo invece per certo è che Gatlin, che io ho visto correre e vincere i 100 metri ad Atene nel 2004, è stato a lungo squalificato per doping. Quindi da una parte parliamo di sospetti, dall'altro di un atleta che è un grande atleta, ma che ci è caduto dentro con tutte le scarpe, è stato riabilitato, ha già fatto la finale dei 100 ed è arrivato secondo per un centesimo. Per un centesimo. Quindi, parliamo anche del caso del giorno? Eh beh, certo. Io perché su questo chiamo gli amici, è 800-24-0024 perché stiamo litigando da due ore in redazione. Il caso del giorno è il fuoriclasse presunto. Il cammello? Cioè quello di cui abbiamo sentito prima. No, perché qui non ballano soldi. Comunque, il caso del giorno è il dare possibile. Soldi a vedere cammello, non è probabile, soriano. Probabile. Ritorno di Mario Balotelli al Milan. La storia brevemente: ieri sera questo incontro a Firenze, Balotelli-Mihajlovic. Da quello che trapela, Balotelli avrebbe convinto Mihajlovic, che già lo conosce dai tempi dell'Inter, gli ha promesso che si impegnerà, non farà più balotellate, cercherà piano piano di risalire le posizioni dopo una stagione sportivamente sbagliata a Liverpool. E adesso Milan e Liverpool stanno trattando sui dettagli per questo prestito che dovrebbe riportare Balotelli al Milan. Sì. Io non so cosa ne pensi. 800-24-0024. Io sono sarei contento comunque che trovasse una squadra e lo spazio per giocare. Quindi sarei contento se tornasse in Italia. È chiaro che non l'ultima, ma l'ultimissima chance per Balotelli. Non so quale spazio posso immaginare. Io non ho capito se Balotelli risolve un problema al Milano o ne mette uno in più a Mihajlovic. Aspetta, non arriva Ibrahimovic, arriva lui. Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi in regia. Mi fate sentire Mihajlovic un annetto fa su Balotelli. Diciamo, Balotelli conosco da quando era ragazzino, quando è venuto aveva 17 anni, tutto si vedeva che ha grandi qualità. E si vedeva anche che c'aveva un carattere un po' particolare. Non l'alleno, non lo vedo, non sono in contatto da tanti anni, perciò non lo so. Quello che gli manca sicuramente continuità, sicuramente quella rabbia, fame, forse anche la passione. Perché in assoluto perfetto, Balotelli perfetta, in prestito perfetta la descrizione. Lo so, il problema è che da domani lo allena. Da domani lo allena perché evidentemente si sente in grado di allenarlo, perché conta anche lui su sulla voglia. Ha parlato di passione, no? Ha parlato di passione ed è quella che manca a Balotelli, la passione nel fare il calciatore, allenarsi come si deve. Evidentemente Mihajlovic pensa di potergliela ridare. Non dimentichiamo che questo è l'anno degli europei, quindi se ci tiene, se ha un po' di passione anche per la maglia azzurra, deve tornare a giocare. È chiaro che molti tifosi del Milan non sono contenti. Prima ho sentito, visto diversi sondaggi, e quasi nessuno è convinto perché tutti che si aspettavano Ibrahimovic, poi non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, no, e anche questo io credo possa pesare, perché quando andò al Milan 3 anni fa Balotelli arrivava da figlio del prodigo che tornava a casa, oggi ci arriva da piano B, ci arriva da uno che ha detto l'errore più grande della mia carriera è stato tornare in Italia quando sono andato al Milan, e quelle parole lì sono le prime probabilmente che sono venute in mente a molti. Oggi ci arriva da piano B, ci arriva da riserva del Liverpool, ci arriva da un giocatore che ha perso una stagione, ci arriva da giocatore che si gioca appunto l'ultima chance. Mondiale disastroso, stagione irrilevante, ininfluente, inesistente al Liverpool, e arriva al Milan. La domanda è certamente non a fare Ibrahimovic, a fare che cosa? Avrà voglia ancora di mettersi in discussione, di fare il giocatore, di conquistarsi il posto? Questo lo vedremo. Lo chiediamo anche a voi a casa, cioè, state già scrivendo SMS al 349-238-6666. Max da Udine dice: Balotelli al Milan, per le grandi davanti c'è una concorrente in meno, quindi mi pare poco convinto. 800-24 non dimentichiamo che non costa 0024. Niente No, tra l'altro non costa niente, costa però niente. C'è? Ma poi abbiamo tempo di parlarne, eh? Abbiamo anche degli ospiti sulla vicenda Balotelli. Aspettiamo anche l'inizio di Juventus Udinese alle 18, vi racconteremo insomma che cosa succede, tutto il prepartita. Traffico. Se lei mette una mela marcia dentro lo spogliatoio può infettare anche tutti gli altri. Balotelli è una persona che io non accetterei mai facesse parte dello spogliatoio del Milan. Tutti convocati. Convocati. L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a un metro, le spiaggia, le code di balena, il cielo senza luna. L'Inter, il Milan, la Roma, sono squadre che hanno fatto un ottimo mercato, si sono rinforzate molto e credo che insieme alla Juventus siano le favorite per lo scudetto. Non scordandosi del Napoli, l'allenatore nuovo sicuramente ha portato nuovi stimoli, la Fiorentina che sta facendo bene. Credo che sia un campionato molto più equilibrato di quello dell'anno scorso. Aperto fino all'alba, ricordo di un futuro già vissuto. Tutti quanti partono sempre per il massimo traguardo, perché tutti possiamo pensare di poterci arrivare. Siamo coscienti delle nostre qualità, dipenderà da noi chiaramente. Poi questo si costruisce con l'andare delle partite, con l'andare del tempo. In questo momento tutti possono dire di poterci lottare, almeno le squadre che sono preparate per questo. Noi siamo l'Inter e dobbiamo sicuramente partire con questo obiettivo. L'estate e la libertà. Ci sono alcune squadre che hanno diritto di sognare di vincere e ci sono altre che hanno dovere di vincere. E noi siamo Milan e faremo sempre parte del secondo gruppo. Perciò il nostro obiettivo domani, come per tutto il campionato, è solo uno: vincere contro tutti e ovunque. Io parto da delle basi. Noi siamo arrivati vinti in un campionato in cui sono stati assenti Milan e Inter, e che quest'anno mi sembra Milan e Inter si ripresentino con grandissima forza. Quindi per noi è un campionato difficile, visto che stiamo cambiando qualcosa, siamo in costruzione, non sarà un campionato sicuramente semplice. E che settembre ci porti una strana felicità. E poi fra 50 minuti scopriremo se è davvero un campionato più equilibrato o no. Juventus Udinese, ci sono le formazioni ufficiali, così le commentiamo insieme a Max Nerozzi, inviato della stampa allo Juventus Stadium. Ciao Max. Ciao Max. Ciao, buongiorno a tutti. Oh, c'è qualche novità, perché allora la leggo rapidamente: la formazione della Juventus 3-5-2 con Buffon in porta, Barzagli, Bonucci e Chiellini sulla linea difensiva. A centrocampo, da destra a sinistra, Lichtsteiner, Pereira, che ha vinto il ballottaggio con Sturaro, Padoin regista, Pogba, Evra, e davanti con Mandžukić, che ha recuperato, non c'è Dybala ma Coman, come a Shanghai. Perché? Una figuraccia abbiamo fatto tutti noi che prevediamo le formazioni. Sì, non ce n'è uno credo che l'abbia presa, no? No, penso di no. Ma neanche a Shanghai, credo, no? No, guarda, a Shanghai c'era un pochettino più di ballottaggio, però qua, sai, alla prima al teatro di casa tutti si aspettavano mister 40 milioni, in realtà Allegri fa con Dybala quello che aveva fatto con Morata, dopodiché Morata va davanti Tevez e qui Tevez non c'è. E quindi cos'è, un azzardo? No, messaggio? Se devo azzardare, però la mia è pura congettura unita a qualcos'altro, forse, non so, eccesso di tunnel o di piroette, diciamola così va. Cioè, Dybala non è piaciuto tantissimo in queste settimane in cui è atterrato sul pianeta Juventus, questo è un po' il messaggio. Sì, però un po' è strano, perché a me mi hanno sempre raccontato come uno non sudamericano, se per sudamericano si mette l'etichetta al giocatore che fa eccesso uso di talento, sbonazzi, che preferisce l'estetica alla pratica. In realtà Dybala sembra uno molto pragmatico, dopodiché, anche se ricordate, a Shanghai fece un paio di tunnel e Allegri si incavolò di brutto, tant'è che argentino chiese scusa a fine partita. Forse dovrà ambientarsi al nuovo regime bianconero. Sì, detto che sono passati, correggimi se sbaglio, 15 giorni, giusto? Sì. Evidentemente, se siamo tornati a un'esclusione in panchina, dopo le scuse le cose non sono cambiate. Io provo a mettere insieme i pezzi del puzzle che Max Nerozzi ci sta raccontando. Sì, ma è anche strano, perché mi sembra che in precampionato non sia mai stata in discussione la titolarità del posto di Dybala. Da quando Morata si è fatto male, poi. Certo. Sì, sì, vero, hai ragione. Anche l'amichevole, ma insomma, poi quando è entrato a Via del Tunnel ha fatto bene anche a Shanghai. Il gol che ha fatto, insomma, non era semplice. Staremo a vedere. Arriva Cuadrado, ci dai anche tu conferme? Viene dato praticamente per fatto l'affare. Sì, è sicuro, la Juve pagherà l'affitto 1,5 milioni di euro e non so, mi sembra che Mourinho, oltre grande allenatore, si stia dimostrando un grande benefattore, perché insomma il 2 febbraio scorso Cuadrado è stato pagato 33 milioni di euro più prestito di Salah. Adesso viene dato in prestito a 1,5. Se ripenso anche a De Bruyne, ceduto a 18 al Wolfsburg, ora se ne va per 70. Vabbè, ma lo sai, lo sai che l'Inghilterra è un grande discount, sì, cioè loro prendono giocatori al prezzo che vogliono, poi quando non gli servono più se li levano dai piedi alla svelta. Succederà anche con Balotelli al Milan, lo sai bene, Max. Sì, no, è vero, ma qui la Juve però Cuadrado, non so poi come verrà collocato, però se ci pensi è un po' un paradosso che se ricordate Conte non più tardi di un anno e mezzo fa, insomma, per Cuadrado diciamo che avrebbe venduto un pezzo dello stadio, sì, in realtà. Non glielo presero mai, adesso praticamente arriva come omaggio, preso con i punti, perché insomma è un di più, perché in realtà Marotta cerca ancora un centrocampista offensivo, a questo punto non so se arriverà, sicuramente non sarà Mkhitaryan, perché con Cuadrado si esclude lo slot che ci arriva per gli extracomunitari va chiuso, e quindi non è più possibile, arriva un comunicatore, arriva Draxler, che era se arriva per cui, dopodiché io azzardo, con tutto il rispetto per Tevez, Pirlo, se arrivasse anche un buon centrocampista offensivo, per me la Juve può essere anche più forte dell'anno, almeno più completa, sì, perché con Cuadrado è un giocatore, puoi fare anche 4-3-3, dal punto di vista tattico sarebbe veramente una macchina da guerra. Aspetta che vi faccio sentire il rumore dello stadium. Sky Sport stanno entrando in campo. No, è passato. Oppure non arriva nessuno. Appunto, è quello il problema. Da gennaio chiede il numero 10. L'anno scorso Conte chiedeva Cuadrado e non gliel'hanno preso. Quest'anno Allegri è da gennaio che chiede un numero 10, gli prendono Cuadrado che è un esterno. E conferma che alla Juve il mercato lo fa la società, Max. Se non arriva nessuno, qualche domanda bisogna anche farsela. Lo fa, secondo me, giustamente alla fine, perché i giocatori sono della società. Dopodiché sono d'accordo con voi che l'allenatore chiede un numero 10 addirittura dal mercato precedente, non solo a gennaio, ma già quando arrivò Allegri. C'era il 15 luglio, 16 luglio, quindi un po' le trame erano fatte. Però sì, è vero, il trequartista faceva comodo, però Allegri, con massimo della tranquillità, atterrammo in Cina la settimana prima della Supercoppa e disse: se non arriva un trequartista, semplicemente cambierò modo di giocare. Vi faccio sentire Allegri ieri a proposito del mercato e della sintonia con la società. Sentiamolo. Credo che sia normale che la Juventus sia ancora in fase di costruzione, perché sono stati cambiati molti giocatori, sono arrivati giocatori nuovi e mancano ancora dei giocatori per completare la rosa. E la società sta lavorando molto bene, siamo in totale sintonia, credo che abbiano fatto un ottimo lavoro. Sì, di sicuro l'etichetta di aziendalista Allegri non se la toglie quest'anno alla Juve, No, ma lui non soffende neanche. No, ma io non so se sia un pregio però a questi livelli. Io, Max, ti dico la verità. Cioè, se tu da sei mesi hai in testa una squadra che ha bisogno di un 10 forte per cambiargli completamente pelle, a un certo punto magari non devi arrivare agli eccessi di Conte. No, hai ragione. Nel senso, si dice sempre che Mancini è molto bravo a far spendere tanto le proprie squadre o a tenere giocatori. Però sai, cosa puoi imputare a una società che... vado per difetto, ha speso il mercato attuale 110 milioni di euro e vado per difetto, non è poco, sì, è vero, fa un po' ridere, perché l'allenatore da Schneider in giù ha sempre chiesto un giocatore di quel tipo lì, insomma un trequartista, gli serviva al punto che si sono inventato in Vidal, insomma, come fece con il Milan con Boateng. Sì, scrive Gabriele da Torino, 349-238-6666, alla Juve manca un regista serio, oggi gioca Padoin, per carità ci sono gli infortuni, però credo siamo al minimo sindacale degli ultimi 4 anni di qualità in mezzo al campo, a proposito di Juve più forte o meno. Sono d'accordo con te, l'anno scorso Marchisio ha fatto molto bene il vice Pirlo, la domanda di quest'anno è: se non c'è Marchisio chi gioca? Oggi gioca Padoin... è certo che un regista farebbe comodo, insomma. Quindi siamo a vice Pirlo che è Marchisio, e siamo al vice Marchisio che adesso è Padoin, e in attacco si cerca un 10 e arriva il vice 10 che invece è un 7, e siamo ai vice, però non è detto neanche che la Juve, Max, debba giocare con un regista arretrato. No, assolutamente. Però per altre cose Allegri. Avevi anche dei giocatori che non avevi, però. Cioè, io penso che Alexandro sia un acquisto che sia sottovalutato. Per me è il più forte che la Juve ha preso quest'anno. ti dico. Sì, sicuramente l'ha anche pagato una cifra. È vero, banale. Sono d'accordo, l'ha pagato molto, ma ti garantisco che se arrivava a zero, cioè scusami, a gennaio, quando lui poteva svincolarsi, firmava o per Manchester City o PSG, proprio garantito, alla Juve non ci andava. Sì, sono quelle occasioni che i club italiani oggi devono prendere prima che si tratti soltanto sull'ingaggio. Questo è il senso del discorso. Grazie Max, buona ciao partita. Max. A voi, ciao, buon lavoro. Max ciao. Terozzi a Torino per Juventus Udinese 800 24 00 24. Vi ricordo ancora la formazione, la prima formazione della Juventus di questo campionato: Buffon in porta, Barzagli, Bonucci, Chiellini in difesa, Lichtsteiner, Pereira, Padoin, Pogba ed Evra a centrocampo, Mandžukić e Coman in attacco. La formazione dell'Udinese: Karnezis, Ertò, Danilo, Piris e Denilson, Badu, Iturra, Bruno Fernandes, Adnan, Terò e Di Natale. Ci fermiamo, torniamo subito. Il rigorista oggi lo sceglierò perché c'è un po' di assenti, vediamo un po', perché Morata è fuori, Marchese è fuori, quindi comunque uno a tre a rigore, sperando che ce lo diano, ce lo mandiamo. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Un giorno mi piacerebbe incontrarlo e fargli qualche domanda, posso? Mario? Chi sta parlando? Noi, secondo te, andiamo in campo per vincere o per perdere? Siccome quando vince il Milan è bravo Mario e quando perde il Milan è colpa di Mario, io l'accetto, non c'è problema, però le tue critiche non mi servono, me le faccio da solo, grazie. Secondo te, per vincere, dobbiamo fare gol o no? Guarda, ho cominciato questa stagione non molto bene, vengo qua per rifarmi e fare bene. E per fare gol dobbiamo tirare in porta o no? Mi sono sempre impegnato e sto migliorando tanto. Per tirare in porta dobbiamo stare lontano dalla porta? No, vicino alla porta. E allora perché tu giochi sempre anche nella nostra metà campo? Quando la palla non arriva in aria devi andarla a prendere fuori dall'aria. Speriamo che impari. Secondo me non capisci di calcio. Però è vero, è vero. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. A parte sta cosa di Gagliani che dice che gli amori fanno giri immensi, che lo posso dire sinceramente. Sarebbe ora di cambiare canzone, no, non l'ho già detto per cacà. Aspetta, fammi salutare Franco Ordine. Ciao Franco. Ciao. Eccomi. Ciao, qua. Di la verità, non se ne può più di sta storia di Venditti. Ma poi tra Milan e Balotelli non c'è stato questo grande amore. Cioè, tra Milan e Kakà, allora sì, anche la canzone questa ci cosa sta. Sta facendo arrabbiare un po' i tifosi del Milan, Franco. Un po' tanto. C'è un'autentica rivolta. Ma d'altra parte, come dire, il giudizio. Allora, in questo momento il giudizio è necessariamente tronco, nel senso che l'operazione in sé per sé non ha nessuna motivazione ed è un rischio clamoroso, è come mettere una bomba a mano senza sicura dentro un asilo. Ecco, poi è vero che c'è il vantaggio di avere un artificiere esperto come Mihajlovic, che ha già disinnescato l'ordigno ai tempi dell'Inter di Appiano Gentile, ma quello era un altro Balotelli, sì. Era un ragazzino. L'unica cosa da capire è se Balotelli è la password per aprire Ibrahimovic al Milan. Cioè, allora tu pensi che sia fattibile l'idea che Bacca, Luis Adriano, Balotelli e poi magari anche Ibrahimovic? No, io penso questo. Allora, penso che ci siano. Lo scenario deve essere completo. Allora, noi sappiamo tre cose. Primo, Niang c'ha un dito del piede rotto e per almeno 2 o 3 mesi è fuori gioco. Secondo, Matri vorrebbe andare a giocare e se la Lazio dovesse confermare l'interesse, la Lazio costituirebbe un'occasione per andare a giocare e magari fare anche le coppie. Terzo, può darsi che la ricaduta che ha avuto Menez sia una ricaduta di non poco conto dal punto di vista dei tempi del recupero. Allora, se noi mettiamo insieme questi tre puzzle, allora ci sta sia Ibrahimovic che Balotelli. Se poi aggiungiamo al fatto che Raiola abbia messo come condizione: vi porto Balotelli a condizione che voi vi prendiate Ibrahimovic, a condizione che vi prendiate Balotelli, allora diciamo il cerchio si chiude. E dà la stessa, tra virgolette, perché credo che Raiola abbia imparato a fare questo mestiere, e dà diciamo la stessa costruzione che vi ricordate ebbe l'operazione Thiago Silva, Ibrahimovic e Paris Saint Germain. In un primo momento fu ceduto solo e soltanto Thiago Silva, poi l'operazione fu sospesa, congelata, e fu detto al Paris Saint Germain: noi vi diamo Silva solo se soltanto se vi prendete anche Ibrahimovic. Successe qualcosa di simile, credo, anche con Robinho Ibrahimovic. Bravissimo, bravissimo. Solo che però in quella circostanza prima arrivò Ibrahimovic dal Barcellona e due giorni dopo arrivò dal Manchester City Robinho. E lì bastava la promessa: ti prendo anche Robinho. Esatto. Poi dopo la tempistica comunque è stata diversa. Comunque, Franco, tu vedi Balotelli comunque destinato al fallimento al Milan, no, cioè non gli dai fallimento. Una chance? No, non è che non gli do una chance. Io non posso giudicare, intanto non faccio il mago, non posso giudicare quello che sarà e quello. Però uno che fino a 25 anni si è comportato in un certo modo, devo dire, se dovesse cambiare improvvisamente bisogna fare tanti cappello a Mihajlović. Secondo me si fa fatica pensare una cosa del genere, anche se c'è la motivazione della possibilità dell'europeo, il fatto di tornare vicino casa, il fatto di rientrare nel calcio italiano che non è dal punto di vista fisico competitivo come quello inglese. Dico soltanto una cosa, che anche gli allenamenti, questi allenamenti con Mihajlović sono molto duri, molto pesanti, molto impegnativi. E già lì capiremo, soprattutto per un giocatore che è fermo da almeno 6 mesi, come andranno le cose. Perché se lui sarà in grado di reggere quei ritmi, vorrà dire che avrà messo testa a partito. Altrimenti credo che sarà, diciamo, la tassa pagata per avere Ibrahimovic. Senza girarci troppo attorno, l'anno scorso Roger ha detto chiaramente che Balotelli non aveva i ritmi per giocare nel Liverpool, che era prima di tutto una questione fisica, prima ancora che mentale, tattica. È un atleta, quindi se non ce li ha sono solo se non regge i ritmi è solo colpa sua, perché fisicamente è una bestia Balotelli. Poi sentiremo che cosa dice stasera Mihajlović, se avrà voglia di parlare, però vi faccio risentire di nuovo quel pezzo lì di intervista alla Gazzetta di un annetto fa, Mihajlović su Balotelli. No, vabbè, vediamo di recuperarlo. Franco, io però voglio fare questo ragionamento, cioè mi chiedo perché Balotelli debba necessariamente essere un flop, l'ultimo Balotelli portato al Milan a condizioni praticamente gratuite, quando ad esempio all'Inter oggi si ragiona di andare a prendere Borini e tutti sono contenti, e mi pare che Borini più o meno abbia i numeri di Balotelli. Scusa, io non dico che è sicuramente un flop, io dico soltanto questo, che obiettivamente l'ultimo, il Balotelli che si mette in casa il Milan, questo Balotelli è un rischio per un gruppo che mi sembra come dire costruito con l'idea giusta, e cioè tutti che concorrono a raggiungere lo stesso obiettivo. Mi sembra un gruppo che sa benissimo di dover sudare, di dover faticare molto, perché i primi tempi lo dimostrano dal punto di vista della corsa. Quindi ci sono, diciamo, premesse positive. Un conto è se tu porti Ibra, cioè Balotelli non è Ibra, diciamo, anche dal punto di vista tecnico. È pur vero che nel Milan per 6 mesi fu decisivo per ottenere il terzo posto, però in questo momento innanzitutto non giocherebbe titolare, perché anche se non arrivasse Ibra giocherebbero i due, Adriano, Luis Adriano e Bacca, e se arrivasse Ibrahimovic giocherebbe Ibrahimovic trequartista con i due davanti, per cui lui proprio non giocherebbe, e quindi è un rischio, diciamo, con soltanto con un eccesso di rischio e con soltanto nel caso di un miracolo può dare un contributo e un rendimento positivo. Rischia anche Balotelli però, Franco, perché il Milan non lo paga praticamente nulla, no. E quindi nel momento in cui non è funzionale, lui chiude la sua carriera, certo, lo sbattono fuori rosa, tanto non ci rimettono dei soldi, cioè non è un acquisto che devi valorizzare, è un giocatore che arriva in prestito. Ti aspetti che arrivi anche un centrocampista, Soriano o un altro? Secondo me sì, perché questo non sposta, visto che comunque l'affare Balotelli è a costo zero, non sposta nulla, anche come stipendio a costo zero non sposta nulla dal punto di vista dell'impianto complessivo del mercato. Sì, resta lo spazio per fare un altro investimento. Poi vedremo stasera il primo Milan vero di Mihajlovic. Il test è difficile, diciamo la verità. Firenze, ieri Mihajlovic ha detto il Milan ha il dovere di giocare per vincere, come Mancini del resto, insomma non hanno fatto proprio la parola scudetto, ma è chiaro che l'obiettivo è alzare l'asticella. Poi c'è anche questo passaggio che ti voglio far sentire della conferenza stampa di Mihajlovic. Forse non sono stato abbastanza chiaro quando ho parlato nella ultima conferenza stampa con Perugia, che io non ho mai detto che non guardo spettacolo ma cerco solo i risultati. Io lo so che nella storia e nel DNA del Milan i risultati sono sempre arrivati attraverso gioco e spettacolo, e noi cercheremo di proseguire questa tradizione, ma attenzione, perché i risultati non arrivano se una squadra non è organizzata, se non è rabbiosa, se non è aggressiva. Quando ho detto che non prometto i colpi di tacco e i tunnel, lo dico soltanto perché non amo giocate fine a se stesse. Signor Ordine, ha capito anche lei? Perfetto, allora siamo a posto. Ha capito, signor Ordine. Sai chi aveva scritto? No, Franco Ordine aveva scritto: caro Mihajlovic, tu non hai capito nulla, qui non è che si vince con i mezzucci. No, siccome lui aveva fatto prima della partita col Perugia, aveva fatto esclusivo riferimento alla famosa frase di Boniperti, cioè vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Io mi sono permesso di dire: guarda che allora sei completamente fuori strada, perché nell'ortodossia berlusconiana quel tipo di filosofia è stata completamente cancellata, ed è stata invece introdotta una completamente diversa, che dice vincere e convincere con un comportamento leale e soprattutto facendo spettacolo. Sì, e quindi lui ha fatto pubblica ammenda ieri. E lui adesso ieri con quella correzione ha dimostrato di aver studiato i libri di storia. Ti leggo qualche messaggio al 349-238-6666. Voi non lo dite, ma Balotelli sarà un flop al 100%. Poi un altro amico che scrive: con Balotelli e Ibrahimovic il Milan rischia di diventare un centro di ultima accoglienza. Poi Paolo: dopo il mercato che ha fatto il Milan, l'abbandono di Ibra e le difficoltà su Soriano, la mossa Balotelli può significare l'arrivo di un forte centrocampista? Sì, abbiamo detto che Soriano, un centrocampista ce lo aspettiamo, però attento a dire, Paolo, che è abbandonata la pista Ibrahimovic. Poi chiede un altro amico se c'è un allenatore che può lavorare con Balotelli. Secondo lui questo è Mihajlovic, non lo so, in realtà in tanti, Franco, si sono illusi in questi anni di avere in mano la soluzione dell'enigma Balotelli. No, posso dire tutti. Allora, si è illuso Mancini, e poi ci sono presi a botte, se non interveniva Gregucci si menavano di santa ragione. Si è illuso Prandelli, gli è riuscita a metà Allegri, si è illuso Seedorf, si è illuso quelli del Liverpool. Sì. Quindi vuol dire che Balotelli ha chiuso, su questo siamo tutti d'accordo, cioè se buca un'altra stagione può andare all'Isola dei Famosi. Può andare solo e soltanto a giocare lì con Amelia, che lo voleva giocare lì in Lega Pro. Sì, oppure negli Emirati Arabi o magari magari negli Stati Uniti, però con il calcio di queste parti ha chiuso. Noi abbiamo il traffico, io però ho un'ultima curiosità, però Franco mi devi rispondere in 30 secondi, Massimo, ma gioca con le scarpe con dietro la cresta al Milan? Da quello che so io deve eliminare anche la cresta. In testa, non solo sulle scarpe. Sarebbe meglio che eliminasse quella in testa. Grazie Franco. Ciao Franco, a presto. Ciao. Grazie Franco Ordine. 800 24 00 24. Chissà come la pensano. Mi piacerebbe sentire se c'è uno favorevole al ritorno di Balotelli. Lo chiamiamo. C'è qualcuno favorevole al ritorno di Balotelli? 800 24 00 24. Via SMS sta arrivando un plebiscito per il no. Però se c'è qualcuno che è controcorrente, noi siamo qui ad accoglierlo. Traffico. Soriano, ve la do io la notizia, la volete? Siete pronti? È un calciatore della Sampdoria o Sampdoria o San Paolo, fino a quando lo vorrà. Siete d'accordo? Tutti convocati. Tutti convocati. Mercato lo sappiamo, aspettiamo un difensore, un terzino sinistro, Matorosidis ha fatto benissimo questa sera. Adesso noi siamo concentrati sulla prossima partita, abbiamo appena finito la prima del campionato, abbiamo il prossimo impegno che per noi è importantissimo perché ci dirà che in quale ruota giocheremo e poi dopo il mercato è ancora aperto, ma in questo momento siamo solamente concentrati, anche perché comunque non si può cambiare la squadra prima del preliminare di Champions. Le voci le fate voi giornalisti, io non ho mai detto niente, non avete chiesto una cosa, vi ho detto che la società sta lavorando, vedremo come si farà, ma il fatto che sia il mercato aperto è sicuramente una rottura di scatole. Eh sì, perché c'è il mercato aperto, quindi quelle che vedremo questa sera, che abbiamo visto già ieri sera con la Roma in campo, sono in realtà formazioni virtuali. Sì, con diversi giocatori, mi viene in mente Gervinho su tutti, che la Roma sta cercando di vendere a destra e a manca, ma questo lo sapevamo già, vale anche per gli altri campionati. Fino al giorno dopo la seconda di campionato non avremo il volto definitivo delle squadre. Ha detto la sensazione che la Lazio è una sfiga cosmica, perché ieri si è fatto male anche Biglia e quindi prosegue su questa lunghezza d'onda. La Roma non mi ha fatto una grande impressione, adesso aspettano solo il terzino sinistro, però già abbiamo detto come la Roma su questo mercato sia quella che sia stata forse l'unica ad aggiungere senza levare niente rispetto alla squadra l'anno scorso. Sì, anche se ieri non bene. A proposito di notizie di mercato, c'è un assalto del Manchester United per Felipe Anderson, assalto che però pare essere stato respinto al mittente. Ci sono queste voci sull'Inter, Perisic che dovrebbe chiudere entro poche ore e Borini che avrebbe detto ad amici entro 48 ore sarà un giocatore dell'Inter, ma noi abbiamo convocato Carlo Laudisa, penna di mercato della Gazzetta dello Sport. Ciao Carlo. Ciao, anche volto di mercato della Gazzetta. Anche volto di mercato della Gazzetta TV, certo. Non solo penna, ma anche volto. Multimedialità totale. Senti, Gazzetta si punta. Detto che Marotta ha praticamente ufficializzato Quadrado, poi magari sentiremo anche la voce. Ci spieghi cosa sta succedendo all'Inter? Ma c'è questa attesa della fumata bianca per Perisic, per cui sarà stasera, sarà domani, comunque insomma mi sembra che la distanza ormai sia minima. Sarà valutazione intorno ai 20 milioni di euro, Perisic se ne va azzurro ormai imminente. Il che esclude un secondo attaccante o no? Perché in realtà esclude un secondo attaccante o no? Perché in realtà pare che ne arrivino due, cioè uno Perisic e l'altro potrebbe essere Borini. No, la richiesta originaria di Mancini era quella appunto di due attaccanti. Credo che la situazione sia un po' cambiata, quindi quello di Borini non mi sembra che vada condiviso, cioè questa sua aspettativa non trova conferme che Borini arrivi sicuramente all'Inter. È uno dei nomi che è stato fatto sicuramente in lista d'attesa, vedremo se ne arriverà un secondo, perché c'è anche Perotti che aspetta. Sì, c'è una gran lista d'attesa per arrivare da Piano Gentile, c'è anche una lista d'attesa per uscire. Ho l'impressione che questa sarà una settimana un po' da hotel a porte girevoli all'Inter. Solo, sì, all'Inter si aspettano per esempio che Nagatomo vada alla Sampdoria molto probabilmente, vedremo appunto poi cosa accadrà fra Santone e D'Ambrosio, chi uscirà, c'è il discorso di Andreolli per il quale ci sono sia il Bologna che l'Atalanta, e un po' di altre situazioni che sono evidentemente un po' incancrenite da settimane. Sì, no, è divertente come ne parlavamo prima. Allegri, praticamente un anno che chiede un trequartista, gli hanno preso un esterno già Cuadrado. Mancini voleva a tutti i costi un regista davanti alla difesa, avrebbe fatto qualunque cosa per Felipe Melo, gli prendono due attaccanti. Beh no, forse Felipe Melo, lui ci spera ancora di averlo, Mancini. Sì. Sì, vediamo. Per quel che riguarda Allegri, anch'io non sono convinto che poi finisca davvero così, perché un altro centrocampista la Juventus lo prenderà. Vedremo se sarà una mezzala, un giocatore che fa gioco, o se sarà davvero un trequartista. Comunque non finisce certo qui il mercato della Juve. Sì, purché sia comunitario, perché evidentemente Cuadrado va a occupare l'ultimo slot degli extracomunitari. Dove va Jacopo Sala? Jacopo Sala piace al Napoli, ma piace anche all'Inter. Vedremo, è un bel ballottaggio. Il Napoli deve fare un po' di movimenti, perché è scappato Donzaghi, è andato al Bologna, dopo il no di Soriano, comunque un centrocampista, anche Vecino mi pare la Fiorentina credo che non si sia chiusa positivamente, perché la Fiorentina non lo dà, quindi il Napoli prenderà un centrocampista e poi un esterno destro. E c'è il discorso dei centrali difensivi, se con Koulibaly va via. Sì, c'è ancora parecchio lavoro da fare. Giunto lì a Napoli. Beato per lui che Sarri ha detto che non lo disturba, non gli chiede. No, Sarri in questo momento non prende informazioni di mercato. Ha detto. C'è De Laurentiis che lo pungo, eh? Sì, che non so cosa sia la cosa migliore. È vero che su Gilardino c'è un duello tra Palermo e Lazio. Lazio ha ragione. Tare e ha il mercato chiuso, soprattutto in attacco. No, credo che Gilardino si è fatto al Palermo, no, non vedo questo problema. La Lazio, se supera la Champions League, può essere che si iscriva alla rincorsa per Matri, dopo che Mario Balotelli ha preparato le valigie per ritornare nella sua Milano rossonera. Beh, io sono curioso di sentire cosa dice Carlo anche sul discorso a monte, cioè Balotelli esclude Ibrahimovic o è la password per arrivare ad Ibrahimovic grazie a Mino Raiola? No, io non mi sembra che la password ce l'abbia Balotelli, e che dovrebbe averla Gagliani, nel senso del potere economico per potersi permettere il lusso di strappare Ibrahimovic all'Emiro. Non vedo questi segnali di fumo, per cui secondo me Balotelli esclude Ibra. Posto che in Francia, io lo dico da un po' di giorni, del problema Ibrahimovic che deve andarsene, di un presunto mal di pancia, non ne hanno informazione, perché nemmeno lo scrivono i colleghi francesi. Cioè io non vedo proprio le condizioni, mancano 8 giorni alla fine del mercato perché si possa concretizzare un arrivo di Ibrahimovic al Milan, però sicuramente sbaglio, evidentemente nell'ultima settimana, Carlo, ci divertiremo. Allora, alla vigilia di Ferragosto arrivò questa notizia, appunto, che c'era stato il tanto atteso incontro fra Nasser Al-Khelaifi e Ibrahimovic, e fu negativo. Infatti io l'abbiamo scritto in maniera chiara che c'era stato quello stop molto deciso. La speranza era che poi si aprisse qualche nuovo varco all'improvviso, però evidentemente questo dribbling, questa accelerazione sulla sponda Balotelli a me dà il senso della resa sul fronte Ibrahimovic. Sì, i francesi si sono fermati lì a quell'incontro altamente negativo. Per chiudere, Carlo, sulla Roma invece, ieri abbiamo visto una Roma quanto rispondente a quello che sarà il progetto finale di Garcia. Numericamente grosso modo è quella, perché adesso aspettiamo un terzino sinistro, ma magari arriverà un altro centrale, ma non credo. È quella, secondo me Garcia ha molto da lavorare, perché è chiaro che deve far inserire meglio sia Dzeko che Salà, però se ieri abbiamo visto determinate deficit in difesa al centrocampo, sono gli stessi più o meno l'anno scorso. Quindi, ma Gervinho resta a questo punto? Allora, uno fra i Turbe, Gervinho e gli Aic deve andare via. Ci sono molti movimenti sui Turbe, però lì c'è un problema perché l'argentino rifiuta, però sicuramente ha rifiutato sia Fiorentina che Genoa. Stanno cercando una scappatoia all'estero, devono mettersi d'accordo anche col procuratore, il suo cartellino l'ammortamento adesso è di 20 milioni, quindi sì, non può praticamente invendibile, praticamente invendibile dopo l'ultima stagione. Però il prestito, insomma, è un bel guazzabuglio, quindi ecco perché secondo me Giorgino alla fine è incredibile, perché comunque conta sul favore di Garcia. Certo, grazie Carlo. Ciao Carlo, grazie a voi. Ciao. Grazie Carlo Laudisa dalla Gazzetta dello Sport. Guarda le storie di mercato. Noi restiamo qui ancora un'ora, dopo il GR 800 24 00 24 arriva anche Pierluigi Parto. Ragazzi, ci sono fra poco, tutti convocati weekend 800 24 00 24. Ci becchiamo fra poco, Mi girano le scatole quando qualcuno dice ho sentito, oppure che il mio amico Pierluigi Pardo ha detto, a chi? Nessuno si deve azzardare a scrivere stronzate. Tutti convocati. Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri. Il Falco e il Gabbiano si sdoppia dalle 15 alle 16 e dalle 22 alle 23. Le storie più emozionanti, quelle che avete scelto voi. Un mese da passare assieme, un colpo d'ala lungo quanto un'estate. Storie di vite straordinarie. Il Falco e il Gabbiano, dalle 15 alle 16, dalle 22 alle 23. Naturalmente su Radio 24. Io giornali non li leggo. Sono uno dei poi e penso leggere il televideo ancora, quindi e spesso la pagina 250 perché mi interessa ancora della Serie B. Convocati. Alfredson dentro l'area di rigore, solo Torosidis, c'è Jankovic, non segnava da Verona-Roma dell'anno scorso, segna ancora contro la Roma, Bosco Jankovic, 1-0. Fa scorrere verso Florenzi che arriva quasi in zona tiro, ci pensa, calcio in porta, Alessandro Florenzi fa 1-1 sull'errore, a mio avviso, di Raffaella, pareggiato la Roma. Contro il Verona in trasferta sarà sempre difficile per tutte le squadre, per noi lo è stato, ma alla fine un punto in trasferta non è mai una catastrofe, adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima in casa. Prossima in casa che per la Roma è la Juventus, che intanto ha iniziato la sua prima fatica del campionato da 6 minuti e mezzo, 0-0 sotto la pioggia contro l'Udinese. In cui pochino si è visto un retropassaggio di Eden Nilsson che stava mandando Coman in porta, destro un po' strozzato, centrale parato senza grossi problemi da Carnezis. Saluto Sebino Nela, ciao Sebino. Buongiorno. Ciao Seb. Poi vedremo settimana prossima che cos'è la Roma al cospetto della Juventus. Però ieri a me non è piaciuta tantissimo e leggevo qua e là, non è piaciuta quasi a nessuno, tranne forse a Garcia, la Roma ieri sera. Sebino? Ma insomma, l'impegno era di quelli difficili, sicuramente difficile. Per quello che abbiamo visto tutti, possiamo dire tranquillamente che la Roma ha regalato un po' i primi 45 minuti all'avversario, facendo discretamente bene nel secondo tempo, ma nel primo insomma le cose si erano complicate di molto, ecco. Tu hai un'idea di quale sarà la faccia definitiva della Roma? Perché io credo che Gervinho... Sì, no, ma anch'io, ma è l'unica squadra, Sevino, che ha aggiunto, l'abbiamo detto già mille volte in questo mercato, ha aggiunto giocatori senza privarsi di nessuno. Sì. Però ci sono ancora diverse incertezze, cioè Salah è uno che tiene molto la palla, Gervinho sembrava dovesse andare via, invece resta e piace a Garcia. Non è ancora chiarissimo quale sarà la faccia. Sì, sì, no, è chiaro che Salah che abbiamo noi in testa è quello appena arrivato a Firenze, che faceva tutto, faceva gol, faceva cose straordinarie, non certo quello di Verona. La squadra è a posto, come ho detto, la prima sicuramente molto, molto impegnativa, ma questa è una squadra secondo me che può Verona, non lo so, potrà alzare il livello sicuramente anche di molto, potrà e dovrà migliorare tantissimo, insomma credo che sia l'anti-Juve, dovrebbe essere la Roma, insomma, anche le altre hanno fatto un buon lavoro, ma credo che la squadra di Garcia a questo punto... Sì. Non, hai, non hai cambiato idea. Oggi mi ha sorpreso molto leggere, soprattutto sui giornali romani, li cito, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, pagelle piene di bocciatura per Garcia, cioè il tema era non ha capito nulla della partita, squadra con poco senso e soprattutto calcio balbettato, stessi difetti del girone di ritorno di un anno fa. Non mi sembra che la nuova stagione di Garcia a Roma parta col piede giusto, ma non tanto per il risultato, per queste critiche, ma perché mi pare che attorno a Garcia non ci sia più quella fiducia, quella tranquillità che ha accompagnato le prime due stagioni, soprattutto all'inizio dell'anno scorso. Allenatore un po' sotto condizione. Ma questo è, se vogliamo, uno sport tipicamente italiano, insomma, il bersaglio. Il bersaglio è quello, ormai se non vinci una partita è sempre dell'allenatore. Anche l'anno scorso sì, la squadra balbettava da gennaio in poi, perché per un anno e mezzo credo che abbiamo visto giocare a calcio una squadra eccezionale. Non capisco con tutta sincerità dove possa essere l'errore di un allenatore. Non so, probabilmente i giornalisti ne sapranno più di me, più di noi. Anche loro, secondo me, si sono abituati ormai che, visto che si è ridotto questo gap per tutte le squadre, insomma, questo debba essere un anno dove ogni partita vinci 3-0. Sinceramente, non lo so, non riesco a rendermi conto. Il primo tempo della partita di ieri, io l'ho detto, il primo tempo regalato, ma gliel'ho fatta la domanda ieri sera al mister, ma il primo tempo Gervinho e Salah, che erano giocatori, insomma, che dove ti aspetti di più, sì, che ci sia il cambio molto di passo, che ci sia qualcosa che possa spezzare la partita. Non hanno fatto assolutamente niente. Io non sono un giocatore, se dei giocatori di questo livello fanno poco e niente, io non so perché me la devo prendere con l'allenatore. È vero che hai tanti giocatori a disposizione, ma insomma, se cominci a fare dei cambi già la prima, figuriamoci, da qualche parte ho detto pure Totti non ha detto mezza parola, dopo abbiamo tempo per parlarne, perché oggi ci sono anche alcune statistiche della partita di Dzeko, però aspetta Sebino, perché ne parliamo dopo il traffico. No, mi interessava invece chiudere il quadro e il discorso su Salah. In tanti oggi dicono, guardate che Salah l'anno scorso alla Fiorentina è stato straordinario per 5-10 partite, poi in realtà una volta che gli altri gli avevano preso le contromisure era stato un giocatore assolutamente normale. Non è detto che la Roma abbia preso un top player. È vero, qualcuno ormai si è abituato a dire che per 6 mesi è stato, non sono stati 6 mesi, è stato sicuramente meno, però anche nel meno abbiamo visto, insomma, un giocatore in grado da solo, insomma, di poter fare molto, di poter mettere in crisi l'avversario con i suoi dribbling, con i suoi gol, con le sue serpentine, con il suo attaccare la velocità, insomma, le cose le sa fare. Speriamo per l'ambiente giallorosso che le sappia fare per tanti mesi e non per poco, ma insomma, ragazzo con delle potenzialità sicuramente. Sì, non ha cominciato benissimo, no, non ha cominciato insomma, bene. era andata molto bene, magari l'amichevole con Siviglia è andata decisamente meno bene che sta prima di campionato a Verona. Sì, non ha cominciato bene, ma del resto tutta la Roma ha iniziato un po' con il freno a mano, tirato. È arrivato alla fine, valgono i soliti discorsi, deve inserirsi, deve trovare la sintonia con i compagni, valgono tutte queste cose per un giocatore che dopo un lungo tiro e molle è arrivato alla fine. Intanto col freno a mano tirato c'è anche la Juventus, 13 minuti 0-0 e sinceramente mi sembra una squadra in cerca di identità. Crisi profonda per la Juventus, ha già perso lo scudetto. Guarda, c'è un amico che scrive, Max da Udine, se la Roma è l'avversaria più quotata è quella di ieri e il Milan è quello targato Balotelli, allora la Juventus deve stare tranquilla. Vedi i tifosi come vanno da un eccesso all'altro, però la Juventus sta cercando, credo, anche una sua identità in campo, ma del resto era anche fisiologico con il tanto che ha cambiato e i tanti infortuni che ha. Abbiamo il traffico, io chiedo a Sebino un minuto ancora perché poi parliamo di Dzeko. 800 24 00 24, pianto barracca e buonanotte sognatori. Tutti convocati. convocati. Abbiamo avuto un atteggiamento durante tutti i 90 minuti comunque propositivo, positivo, siamo andati a prendere gli altri come volevamo e come avevamo preparato la gara, magari con un po' di cinismo in più potevamo portare a casa i tre punti. Sì, adesso c'è la Juve, una partita, dobbiamo affrontarla come una partita come le altre, insomma, senza avere paura di nessuno. Ma già qualifichiamoci per la Champions e soprattutto ce la dobbiamo giocare, ma per il momento non è d'attualità, l'attualità sarà la prima in casa. Tanto, 16° minuto, 0-0 la Juventus, c'è un'immagine simbolo del cambiamento, Sebino Nela, coinvolgo anche te, punizione dalla zolla di Pirlo, non c'è più te, finita. Ha tirato Bonucci. Ha tirato Bonucci dai 20 metri esatti. Immagine simbolo, credo, del cambiamento, non è detto che sia un male, ne abbiamo parlato tutta l'estate, non esageriamo. Sebino, su Dzeko invece, leggo oggi sulla Gazzetta dello Sport questa statistica, quasi ignorato, poco coinvolto dai compagni, 17 traversoni ma la stragrande maggioranza dalla tre quarti. Domanda, il gioco di Garcia è il gioco fatto per un centravanti vero? Assolutamente sì, non dobbiamo pensare a Dzeko come solo, vista la struttura, un giocatore d'area di rigore. Col City faceva cose splendide giocando con la squadra, il City è una squadra molto, molto tecnica, lui veniva fuori dall'area, sa giocare fuori dall'area, insomma va in appoggio con i centrocampisti, con gli altri attaccanti, un giocatore completo, un giocatore che sa fare tutto. E da quest'anno, dopo due anni praticamente, che non crossava mai la Roma, perché tutte le volte che arrivava sul fondo, visto che ha giocato sempre senza prima punta, i palloni venivano messi raso terra a cercare qualche inserimento, invece abbiamo cominciato a vedere i cross. Però i cross devono essere anche, voglio dire, dei baci per cucina, voglio dire, non è che puoi buttare dentro palloni e basta. Esatto, ci vuole anche la giusta tecnica. Adesso il giocatore ce l'hai da servire dentro l'area, lui va su questi palloni, ha preso 4-5 di testa, cross, punizioni, palle inattive, non è stato preciso, marcato devo dire anche bene dai centrali del Verona, però insomma è un'opzione in più per la squadra che deve crescere, però anche a livello tecnico. E nel secondo tempo abbiamo visto qualcosa di meglio, è salito molto anche Anic, quindi la tecnica è fondamentale in questa squadra, e nel secondo tempo devo dire bene, ma lui si è mosso molto bene. Si oscilla tra la delusione per il risultato e anche la consapevolezza che nel finale in realtà qualche segnale fosse positivo, entrato certo. Un pallone di piani, cioè staremo parlando di una cosa diversa. Fammi salutare intanto Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ecco. Ciao Pierluigi. Eccolo. Siamo pronti, eh? Siamo pronti. Pardo, eccolo. Senti, dimmi, ciao Pier. Ciao Carlino, ciao ragazzi. Allora. Non t'avevo sentito. Oggi abbiamo parlato con Capuano, che parlavamo di come scaricare le applicazioni, eccetera, tutta una serie di cose. Sì, e aspetto le risposte. Esatto, hai risolto? No. Volevo essere certo di questo, che non avessi risolto. No, dopo controllo. Allora, a me è sembrato onestamente che ieri c'è stata chiaramente deludente, per certi versi un po' la Roma dell'anno scorso, nel senso che della seconda parte di stagione, c'è una squadra che non riesce a fare 90 minuti con la stessa intensità. Ieri ha completamente regalato il primo tempo, proprio come atteggiamento, questo possesso palla veramente sotto ritmo in maniera clamorosa, e mi sembra un po' inquietante, ti dico la verità, perché secondo me la squadra davanti è fortissima, ha un punto di riferimento che non è Batistuta, non è Ibrahimovic, però è un giocatore che può essere importante per giocare in maniera un po' diversa rispetto al passato, che è Dzeko. Mi sembra che Garcia ieri sia un po' complicato la vita. Iago Falche mi è sembrato più lineare come tipo di gioco rispetto a quindi sei del partito di quelli, ne parlavamo prima, che pensano che non ci abbia capito tantissimo ieri. Cioè, è un po' brutale come cosa, penso che non sia stata la grande partita alla Roma francamente il Gervinho credo che sia stata una scelta sbagliata, insomma, sia dall'inizio che poi come tipo di sviluppo quando è uscito Salah, perché a parità di inconsistenza magari Salah la giocata se la può inventare con più facilità, no? La protezione la può inventare con più facilità. E poi se volete c'è il capitolo Totti, c'è Castan, al quale ovviamente facciamo per l'ennesima volta in bocca al lupo, che mi sembra abbia ancora un po' paura legittimamente nel colpire di testa, in un paio di circostanze, soprattutto nel primo tempo, su quel 2 contro 2, se lo ricordate, a metà primo tempo, e anche sulla palla gol di Jankovic salvata sulla linea dei De Rossi, lui non salta. E questo è un altro elemento, perché la Roma dovrà decidere se cercare un altro difensore centrale di un certo livello oppure fermarsi così pensando che Manolasse e Castan siano due titolari. Ma interessa il capitolo Totti, ma siamo sicuri Totti ecco, riserva? Così poi salutiamo anche Sebino Nela. Sebino, è riserva, Totti riserva o diventa un problema? No, problema no, io credo che Francesco Totti sappia perfettamente cosa sta andando incontro, insomma c'è la gestione della sua ultima parte di carriera, ragazzo intelligente, ne avranno parlato chissà quante volte, ma secondo me giocherà ancora parecchio, non so quante volte dall'inizio, non so quante partite, non so quante volte subentrerà, ma insomma ci sarà modo, insomma con questa squadra, con questi giocatori, con queste caratteristiche, io credo che però si giocherà un bel po' di partite quest'anno e metterà dentro ancora un po' di gol per aumentare il proprio bottino personale. Però io faccio un pronostico, Sebino, faccio un pronostico. Questa settimana, che è la settimana che porta Roma-Juventus, del tema Totti sì, Totti no, sentiremo parlare. Sicuro? Vabbè, se era la quindicesima, quindi non... non si parla, no, secondo siamo obbligati a parlare. No, avesse vinto a Verona Sabino, bene la Roma, probabilmente non avremmo parlato. Sì, io guarda, sono d'accordo. Ma, insomma, vabbè, questo ce lo portiamo avanti da una vita. Questo discorso. Poi bisogna capire anche come vuoi affrontare gli avversari, come vuoi giocare, insomma. Pier, intanto salutiamo Sebino, ciao, dai, Sebino, che lo lasciamo. Ciao Sebino, grazie Sebino Nela. Ciao Sebino. Allora, ragazzi, no, comunque campionato aperto, eh? Sì, sì, Non è ancora finito. 22esimo 0-0, intanto ciao. Torino tra Juventus e Udinese, Juventus che ha avuto due belle palle gol, Lichtsteiner 19esimo, Desto deviato in calcio d'angolo e poi Pereira sotto misura, ma anche in questo caso una deviazione centrale. Prego Pier, su Totti. No, io Totti l'ho incontrato ieri perché ero a Verona, fin partita, ho salutato, tra l'altro in quel momento stava passando Rudy Garcia, non credo veramente che ci sia stato nessun caso, cioè io sono d'accordo con Sebino quando sottolinea, oltre all'intelligenza di Totti, il fatto che sicuramente si saranno parlati, è chiaro che è un tema che a Roma torna, perché è oggettivo, insomma io ti dico, io sono uno di quelli che parlando di Totti in questi anni, forse per primo rispetto a certi altri opinionisti romani, o comunque fra i primi ho sottolineato il fatto che la Roma dovesse in qualche modo ragionare sul futuro, no? Su un futuro anche senza Totti o comunque con una gestione un pochino più un po' meno dogmatica di Totti, però ieri francamente io 20 minuti l'avrei messo, l'ultimo cambio con l'ingresso di Barbo secondo me è una cosa abbastanza incomprensibile. Totti è un giocatore che su un calcio piazzato può essere decisivo, che ti può fare la grande giocata, insomma questo tipo di ruolo è pure, io non ce lo vedo all'Altafini o alla Massaro da giocatore. È meglio all'Altafini che al numero 12, alla Botini, portiere della Juve, che non c'era mai. Questo è sicuro, però continuo a vederlo da numero 10, cioè nel senso che domenica, cioè che la prossima weekend con la Juventus gioca lui. Vedrai. Può essere, ma non è però francamente non è detto che sia la partita migliore. Magari la partita migliore per lui potrebbe essere una partita come quella di ieri, non lo so. Però ci vogliono vogliono i nervi saldi per tenerlo fuori domenica dopo una partita non andata benissimo, con qualche problema davanti, certo. Era il discorso insomma che facevamo prima. No, il punto è se Garcia sta pensando a lui veramente come un vice Dzeko, perché se lui pensa a Totti come un vice Dzeko, il quadro diventa più complicato. Cioè, se Totti è il cambio di Dzeko, allora lì le cose diventano un po' più difficili nella gestione. Comunque io ti dico, in generale secondo me la Roma deve trovare una stessa pratica, ieri non c'è stata, deve riuscire anche soltanto a strazzi a prestare alto. Ieri Verona è andato in difficoltà in qualche circostanza sul pressing alto della Roma, solo che la Roma ha fatto pochissimo e, insomma secondo me è una squadra che fa fatica a imporre il proprio ritmo sulla partita e il potenziale davanti è enorme, però bisogna esprimerlo. A proposito di potenziale, cosa ne pensi del ritorno di Balotelli al Milan? Ma penso che sia è un bellissimo tema per Tiki-Taka domani sera, però è un bellissimo tema per tutti, questo. Sì, esatto, per tutti i convocati. Pensa che inverno meraviglioso che ci aspetta. Per domani c'è la prima puntata, quindi se domani Balotelli fa le liste mediche mi interessa, a parte le battute. Io francamente ho dei dubbi sull'operazione, nel senso che Balotelli secondo me ha un disperato bisogno di giocare, e il Milan in questo momento dal punto di vista di attaccanti si è messa veramente, cioè, a Luis Adriano e Bacca, quindi secondo me Balotelli va veramente in una delle squadre dove sulla carta c'è meno spazio. Poi è ovvio che gli sprazzi migliori di Balotelli potrebbero portarlo anche a giocarsi una maglia da titolare di questi due, ma questi sprazzi sono piuttosto lontani nel tempo. Io, se potessi dargli un consiglio, gli consiglierei di andare, ammesso che ce ne fosse l'opportunità, in una squadra italiana dove può giocare con un po' di continuità. Sì, perché il problema magari non al Milan, magari non al Milan. La Lazio potrebbe andare bene. Dove tra l'altro? La Lazio, anche la Sampdoria, potrebbe essere una situazione diversa. Anche perché tra l'altro al Milan arriva e tutti si aspettavano Ibrahimovic. A proposito, vediamo se ci riusciamo, perché Pier, ci abbiamo lavorato per una settimana, Vai. A questa grande esclusiva, vediamo se ci riusciamo. Facciamo il numero? Vai. Sentiamo, Vediamo se ci riusciamo, perché... Mica facile. No, dato non è neanche in Italia, quindi sai, collegamenti particolarmente difficili. Pronto? Io sono Zlatan. Voi che cazzo siete? I'm Zlatan number one. Oh. No, Zlatan, non dire parolacce. Tutti convocati Radio 24, che piacere averti con noi. Guarda, che hai visto, grande fiducia. Va bene, io sono contento della vostra trasmissione, ma dite alla ragazza che mi ha telefonato questa mattina. Che deve andare in cucina. No. Quello è il suo posto, lava piatti. Va bene anche terra. No, lascia stare. Come stai, Zlatan? Come stai? Tu sei bene? Sì. Io non ho male di testa. No. Io non ho male dentro gambe. Io ho male di pancia, ok? No, beh, lo capiamo. Tra l'altro, sai l'ultima novità sul Milan? Se te le hanno dette. Io sono molto contento del mio ritorno dopo Barcellona e PSG a Milan. No, a verità la notizia è diversa, però, no, caro, gliela diamo noi. Sì, cioè, torna Balotelli. Io non conosco Pagnotelli, cazzo è. Who dick is? No, Balotelli, che Pagnotelli? Balotelli, torna lui al Milan. C'è la Minoraiola, il tuo procuratore. Tu e gente parlate troppo. Sì. Siete gelosi. Parlare meno in radio e televisione. Se tu vuoi qualcosa mi devi venire a me a parlare. Nessun Bazzitelli viene a Milan, io vado a Milan. A parte che non si chiama Bazzitelli, ma Balotelli, Mario Balotelli, neanche Pagnotelli. Pagnoncelli forse. Neanche. Comunque è confermato, Zlatan. Ecco, ma voi non capite italiano, va bene? Come on, why you don't tell me what you want to know? Why don't you come here? Because you are afraid of me. No, noi non abbiamo paura. Siamo amici, diciamo che Balotelli torna al Milan. Tu Capuano sei giornalista? Sì, se ci provo. Allora perché tu dici questo di Baccarelli? Cazzo guardi, tu giornalista devi sapere tutto di me, di Milan, di loro, di PSG. No, ma infatti lo sappiamo, è che Balotelli torna al Milan. Chiedi a Mino, che è procuratore Mino, di Balotelli. Come on, Mino. Tu sapevi questo di Balotelli? Cazzo guardi, perché non hai detto me? Mino, tu parli troppo in televisione, devi venire a me a parlare. Come on, Mino, come on, cazzo è Balotelli, vieni qua, non mettere le mani addosso. Era Andro Mercu, ovviamente. Telefoniamo qualcuno che salvi Mino. Sì, salvate Mino Raiola. È un eccezionale. Eccezionale. Andro Mercu, quasi meglio di Ibra. Ibra lo fa meglio di Ibra, infatti. Ciao Pier, ti restituiamo Mediaset. Ci sentiamo un po', domani ci sentiamo un po'. A prestissimo. Dopo il GR delle 14 domani ci fermiamo. Ciao Pier. L'arrivo di Ibrahimovic può essere. Ma vediamo se c'è la possibilità. Ibra, certo. Ibra, Ibra, Ibra, Ibra, Ibra. Ricevuto! Tutti convocati. Tutti convocati. Tanto a Torino, mezz'ora passata, 0-0 tra Juventus e Udinese. Juventus che è costantemente, mi pare, Carlo, nella metà campo dell'Udinese. Sì, ma non è che combini un granché. Gran giro palla, peraltro, abbastanza su ritmi abbastanza ridotti. Non ha creato eccelse occasioni, adesso magari una, no, con un cross da sinistra di Coman, che è la grande novità di oggi, perché, torno a ripetere, ha sorpreso tutti. Ne parlavamo prima, l'esclusione di mister 40 milioni di Dybala, che sembrava di donare pressoché inamovibile, prima di campionato gioca a Coman insieme a Mandzukic. Sì, credo dovremmo abituarci abbastanza in questo avvio di stagione a vedere una Juventus che cerca le misure. Abbiamo visto prima Bonucci tirare le punizioni che erano di Pirlo, o Tevez, abbiamo visto Pogba tirare tutti i calci d'angolo che erano di Pirlo. Sono piccoli dettagli, ma credo che siano piccoli dettagli che spiegano bene qual è il processo di cambiamento che è in atto oggi alla Juventus, e quindi non bisogna aspettarsi da subito che sia la Juve dell'anno scorso, questo deve essere chiaro, e questo in parte si sta vedendo anche contro un Udinese che non mi sembra una squadra trascendentale. Intanto altra occasione ancora con Mike Steiner, e parata non semplice di Karnezis, tiro però abbastanza centrale, respinta coi pugni. Comunque 33esimo minuto, 0-0 ancora tra Juventus e Udinese, gioco fermo. Poi questa sera vediamo le altre, vediamo Fiorentina-Milan, vediamo il Napoli a Reggio Emilia contro Sassuolo, vediamo anche l'Inter. Tutti quanti partono sempre per il massimo traguardo, perché tutti possiamo pensare di poterci arrivare. Siamo coscienti delle nostre qualità, dipenderà da noi, chiaramente poi questo si costruisce con l'andare delle partite, con l'andare del tempo. In questo momento tutti possono dire di poterci lottare, almeno le squadre che sono preparate per questo. Noi siamo l'Inter e dobbiamo sicuramente partire con questo obiettivo. Questo è Mancini della Vigilia, saluto Evaristo Beccalossi, ciao, ciao Becca. Non è la prima volta che parla di scudetto per l'Inter, già sul finale della scorsa stagione aveva detto l'anno prossimo l'obiettivo dovrà essere questo. Poi c'è stata in mezzo un'estate di tante delusioni per quanto contino risultati. Lavori in corso più che delusioni, lavori in corso perché credo che la squadra non sia ancora finita. Si parte con un buon gruppo, però devi metterli insieme, devi preparare, devi allenarti, sono cose che nel calcio insomma si sanno. Quello un po' si pagherà, perché le prime gare chiaramente non, secondo me non mi aspetto che sia tutto a posto, però l'Inter deve sempre pensare in grande, e è giusto, è stato cambiato molto, sono stati fatti dei sacrifici, però la squadra secondo me è già una buonissima squadra, però mi aspetto che abbia anche qualcun altro, perché so che si sta muovendo. Tanto prima giornata di campionato si parte tutti da 0-0 e lo scudetto possono dividerlo in 10 parti. No, ma il concetto è quello, perché parti quando tu sei Milan, Inter, Napoli, Roma, devi creare una certa mentalità. Poi dopo ci sono delle squadre che secondo me la Juve è più avanti, perché è un lavoro di 3-4 anni. È chiaro che l'idea di gioco e tutte quelle cose lì sono avvantaggiati e hanno dimostrato negli ultimi anni di aver fatto le cose a modo, però le altre devono avere una certa mentalità e lavorare, cercare di arrivare nelle prime tre posizioni, perché sono quelle che contano. Ma questa sera che Inter ti aspetti? Cioè quanto distante da quella che abbiamo visto in queste amichevoli estive onestamente deludenti, poi il risultato non conta, però su ritmo, gioco, su tante cose sono state deludenti. Quanto sarà distante? Ma non credo che saremo al 100%. Mi aspetto prima di tutto di riuscire a vincere, che è sempre molto, molto importante, perché tu puoi prepararti, puoi provare tutto, però non viene il risultato, è chiaro che complica un po' le cose. Però so come era ora il Manzolo, ho visto, perché sono stato sul ritiro, sono stato anche alla Pinettina, secondo me si è sulla buona squadra. È un peccato che secondo me si è perso un po' di tempo, perché insomma le uscite di certi giocatori e quelli che dovrebbero arrivare a completare questo gruppo sicuramente non facilita il lavoro giornaliero di un allenatore che li deve mettere insieme. Hai capito che Inter è in testa Mancini? Perché io sinceramente no, vabbè. 4-3-3, 4-2, che Inter in testa, 4-3-3, 4-2-3-1, no, rombo. Aspetta che prendo il busso volto, no, secondo me farà... No, l'idea ce l'ha, perché l'idea calcistica a livello tattico ce l'ha, poi dopo che il campionato ha fatto giocare tanti giocatori che si deve cercare di... che sono in uscita, quindi però le idee le ha molto chiare, state tranquilli. Aspetto anche qualche volta adesso, per esempio stasera mi aspetto un trequartista dietro ai Cardi e Jovetic, che Jovetic magari farà la seconda punta, però nello scacchiere ci può essere anche un 4-3-3. Queste sono un po' le mie impressioni. Sì, tu poi ci aiuterai a capire perché è partito Shaqiri, Kovacic più o meno abbiamo capito, è stata una scelta legata al fair play finanziario. Beh, anche una grande su Shaqiri affare, un po' meno, su Shaqiri un po' meno, perché Toir ha detto sì, è andato via per i conti, ma poi non si era integrato negli schemi di Mancini. Mancini ieri ha risposto così. Shaqiri era un giocatore sul quale noi credevamo molto, perché è un ragazzo giovane dove l'Inter ha investito. Se poi ci troviamo in una situazione dove l'Inter è costretta a far cassa e non ha nessuna richiesta se non per Shaqiri, non c'è un'altra alternativa. Noi possiamo vendere le sedie di Appiano per fare dei soldi. Quindi in quel momento lì l'Inter aveva bisogno di fare questo e a malincuore è stato fatto. Quindi non è che non c'è programmazione, o cioè da fuori è facile parlare e dire. Tu hai capito se Shaqiri, Evaristo, faceva parte o no del progetto di Mancini? Era ben visto, però, e anche Kovacic credo che fosse ben visto, però poi quando arrivano certe situazioni fai i conti e dici o abbiamo il certo e allora non si tocca, ma visto che tutti e due qualche problemino, di uno di rendimento da 2 anni e mezzo, l'altro che è arrivato a gennaio non era magari ancora al top, è chiaro che la società deve guardare anche altre cose. Io, cioè, mi spiace perché Kovacic è un ragazzo giovane e tutto, però in 2 anni e mezzo le qualità le aveva, le doveva tirare fuori, insomma, e poi quando arriva un carico da 11 così, come fai a rifiutare? Ma sì, no, però... ma chiaro, 35 milioni, ma stai scherzando, ragazzi. È un giocatore, ma tu quante volte l'hai visto Kovacic essere decisivo in una partita? Era un Inter difficile, era un Inter difficile da interpretare, era un Inter complicata, che ha cambiato tanti allenatori, però io non l'ho mai visto. Ascolta, io ho avuto la fortuna di giocare in quello stadio lì. Uno quando viene all'Inter deve dare il 30% in più, non ma vediamo, mi devo inserire, questo è il concetto. E di fronte a un'offerta così non potevi dire no. Sì, però io sospetto che Mancini non l'abbia solo subita quella scelta, cioè Kovacic non ha avuto un ruolo nemmeno con Mancini, Shaqiri nel finale di stagione aveva perso ruoli, il posto. Matteo l'ha provato in tutti i ruoli, dai, anche ultimamente l'ha provato anche davanti alla difesa, quando è arrivato gli aveva fatto fare il quartista. Cioè io credo che quando uno ha le qualità, e Matteo le ha le qualità, però ecco, quando vai in quello stadio lì e giochi in una squadra importante non c'è timidezza, non ci deve essere niente, la testa deve essere libera e dire io voglio essere protagonista in questa squadra. Balotelli che torna al Milan, no, mica facile, a proposito di gente che deve dare il 100%, Balotelli che torna al Milan, che impressione ti fa? Mi fa che sono preoccupato perché di là c'è Sinisa e Sinisa lo conosce molto bene. Cioè, se non prende questa chance credo che Mario sarà difficile che torni a certi livelli. Solo uno come Sinisa riesce a dargli questa chance, e sono convinto che ci sappia anche fare. Poi ti dico cosa volevo aggiungere, che è meglio di no. volevi aggiungere che faceva comodo anche all'Inter magari, no, a queste condizioni? No, perché cioè, se chi conosce bene Sinisa sa il carattere che ha, quindi lo prende a calci nel culo, volevi dire questo? No, dicendo, non si può dire pur di far rendere un giocatore, Sinisa ha tutte le facce, bravo, morbido, duro, cioè, quindi credo che sia una grande chance per Balotelli. Sì, però questo lo dicono tutti, cioè lo diceva e lo pensava Mourinho, che non è un altro che è molle con i giocatori. Mancini in fondo Balotelli l'aveva lanciato, anche Roger non risulta essere uno malleabile con i calciatori, eppure tutti hanno fallito. Noi continuiamo a vivere nella speranza che il prossimo ci riesca. Tu un po' meno nella speranza, però diciamo. No, io perché poi dopo ognuno di noi ha un carisma, una personalità, un modo di approcciare, e magari non è andata bene con 4-5 e Sinisa secondo me ha queste caratteristiche, e confido, secondo me, perché è un parere da esterno così. Se veramente Balotelli vuol fare calciatore, meglio di Sinisa in questa situazione è quello che gli tenderà la mano, però dovrà rigare dritto. Così ci togliamo i dubbi. Se ha deciso di fare il calciatore, cominciamo a capire se è sì oppure se è no, perché fino adesso mi sembra stia andando verso il no. Poi bisogna vedere anche se gioca, perché gli altri due partono davanti a lui, questo è evidente. Sì, però deve anche ripartire qualche volta. Gli altri gli possono dar fiducia, ma Mario si deve mettere a dire. Siccome io credo che calcisticamente questo è un giocatore che abbiamo visto tutti cosa ha fatto, non ha espresso per quello che è nelle sue possibilità, e mi preoccupa il fatto perché in mano a Sinisa credo che sia l'unico che possa dargli l'ultima chance. Sì, grazie Evaristo. Ciao Beck. Ciao ragazzi. Ciao, un abbraccio. Ciao. Grazie Evaristo Beccalossi. Siamo vicini al traffico, sai cosa facciamo? Intanto dimmi. Juventus 41-30, 0-0 e negli ultimi minuti qualche difficoltà in più ad arrivare al tiro. Facciamo che sentiamo, siccome questa sera sono 7 le partite, sentiamo la vigilia dell'inizio del campionato di un po' di allenatori della nostra Serie A. 12 più portiere. Poi sei ragazzi della primavera, quindi vuol dire che 10 giocheranno e a parte il portiere chiaramente la panchina sarà composta da 2 giocatori più ragazzi della primavera, e quindi alla fine ci può essere, presumo che ci sarà posto per tutti. Non ho problemi di scelta questa volta. Un allenatore che ha sempre ha avuto le sue squadre organizzate, con aggressive, un Milan propositivo che rischia anche come noi la costruzione. Per questo io credo che sarà una partita bellissima. Antonio si è messo a disposizione, sta facendo una grande prova per se stesso, anche perché lavorare come sta lavorando lui è da grande persona, da grande professionista, quindi è un'arma in più che la Sampdoria ha insieme a tutte le altre che possiamo proporre durante le partite. Tutti convocati. Tutti convocati. Tanto mancano 30 secondi alla fine del primo tempo di Juventus Udinese, alla niente fine dei primi 45 minuti della stagione di campionato dei campioni d'Italia. No, niente non, di indimenticabile. Non indimenticabile questo primo tempo, Giovanni, né per quello che ha fatto la Juventus né come partita in sé. Udinese molto ordinata, Juve che gioca a ritmi abbastanza bassi e fa fatica a trovare la porta, insomma. Primo tempo così. Sì, credo che a parziale consolazione dei tifosi della Juventus ci sia che questa non sarà la Juventus definitiva, un po' per quello che porta al mercato. A proposito, c'è Marotta su Cuadrado nel prepartita, così lo sentiamo brevemente, di fatto ufficializza l'arrivo di Cuadrado, sentiamolo. Ma diciamo che oggi è una buona opportunità, poi aspettiamo domattina per arrivare. Speriamo e pensiamo a una ufficialità. Arriverà con la formula del prestito, quindi cessione temporanea per una stagione. Questo Marotta e microfoni di Mediaset Premium. L'altra spiegazione è che ci sono gli infortuni. Finito il primo tempo, 0-0. Vedremo cosa succede nei secondi 45 minuti. Oggi però, adesso però, parliamo della grande domenica, grande sfortunata di Vettel. Il pilota sta scoppiando. Scoppio della posteriore destra. Ci hanno provato a dare fino in fondo, non ha retto la posteriore destra. La rabbia di Sebastian Vettel, la delusione per gli uomini della Ferrari. Sfortuna, come la definisci? Un commento, è difficile fare un commento nel momento in cui sei sul podio per una scemenza come una foratura. Ti trovi giù improvvisamente, cioè è andata così. C'è il grande rammarico per Seb, perché ce l'avrebbe fatto, e sai quando sei lì e poi succedono queste cose, non dico la parola, ma in ogni caso avanti. Questo era Maurizio Arrivabene, saluto Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta. Ciao direttore. Ciao, buonasera a tutti. Ciao direttore. Beh, il commento l'ha fatto Vettel, in realtà ha detto se l'episodio dell'esplosione della gomma fosse successo 200 metri prima, a 300 km all'ora, non sarei qui a commentarlo. È inaccettabile. Quanto successo a Rosberg è stato sottovalutato, non è stata una foratura, ma una vera e propria esplosione. Poi la Pirelli ha risposto, ma quale cosa inaccettabile, è stato un problema di usura, Vettel ha fatto 28 giri, gli altri mediamente 20, perché poi discutiamo intorno a quell'esplosione che ha tolto a Vettel il podio, ma in realtà racconta insomma qualcosa che forse è più inquietante. Ma diciamo che la Ferrari oggi ha azzardato, ha giocato d'azzardo per cercare di essere aggrappata a un podio che le prestazioni in pista, soprattutto le prestazioni in prova, avevano allontanato molto, quindi soltanto rischiando con un cambio gomme in meno degli altri sarebbe riuscito ad andare sul podio. Il rischio era grande, stava pagando, perché a 11 km dalla fine la Ferrari era sul podio meritatamente con una grande rimonta di Vettel, così come dietro stava facendo una grande rimonta anche Raikkonen, però alla fine è saltata la gomma. Quello che la Ferrari imputa alla Pirelli è il fatto che questo scoppio sia arrivato all'improvviso e non ci sia stato invece un calo di prestazione, perché le gomme stavano tenendo Vettel davanti a Grosjean senza troppi problemi, e invece improvvisamente la gomma esplode. È vero, ha fatto molti chilometri più degli altri, ha sparato un giro sui 7 chilometri, quindi 6-7 giri in più degli altri, sono una quarantina di chilometri in più degli altri, che con le gomme di oggi sono tanti. Il problema è che non c'è stato degrado e quindi non c'è stato il campanello d'allarme. La Ferrari assicura che ha fatto le sue scelte in massima sicurezza, insomma, che loro avevano preventivato sì un calo magari delle prestazioni, come è capitato qualche anno fa, ricorderete, in Canada con Fernando Alonso, che rimase sulle tele e che perse la gara, passò da ultimo, da primo a nono nel giro di pochi giri, ma non di aver rischiato il suo pilota mandandolo in pista con il rischio che le gomme scoppiassero. Effettivamente lo scoppio della gomma è stato un po' anomalo, però c'è da dire che la Ferrari ha rischiato per cercare di restare sul podio. Il rischio non ha pagato. Poi, se su una pista come Spa, forse sono rischi che bisognava prendere in considerazione in modo diverso, perché ha ragione Vettel nel dire che scoppia in fondo allo Rouge o in fondo al Radion, poi non sei più lì a raccontare la cosa come è capitata a Rosberg venerdì. Sì, poi Vettel è anche uno molto attento nella gestione della macchina, particolarmente arrabbiato a fine gara, ma c'è da capire, insomma, una pista come Spa ti salta una gomma, veramente il rischio è enorme, quindi averlo sentito un po' sopra le righe rispetto al solito, insomma, è concepibile visto la paura che probabilmente ha avuto. Sì, si può assolutamente comprendere. In generale io dico che questa Ferrari estrema che tenta l'azzardo, Vettel estremo che tenta l'azzardo, a me piacciono, cioè sono segno che non ci si rassegna. Non puoi fare altrimenti oggi, non puoi fare altrimenti. La Ferrari non poteva fare altro oggi, rischiare per restare sul podio poteva dare un significato a questa domenica, a questo weekend decisamente nero. Se la Ferrari avesse fatto tutto secondo i canoni, pigliava un quinto, un sesto posto, che non cambiava assolutamente la domenica. Un podio lasciava un po' di dolce in bocca, soprattutto in vista del Gran Premio di casa, insomma. Quindi io condivido, è giusto rischiare, anche perché non c'è in ballo il campionato. La Ferrari è solo aritmeticamente in lotta per il campionato, ma non scherziamo, insomma, le due Mercedes sono su un altro pianeta, quindi tanto valeva provare a restare sul podio, che insomma era anche il 900° Gran Premio della casa. Il 150° di Vettel ti dava una medaglietta, insomma, sì, con cui andare a casa un po' più contento. Certo che sarà difficile sfilare il mondiale a Hamilton. Io direi che in questo weekend ha neanche battuto, ha quasi umiliato, no, sportivamente Raikkonen. Hai ragione, l'ha massacrato, non Raikkonen, no, l'ha massacrato. Perché in qualifica gli ha dato quasi mezzo secondo, in gara Rosberg ha sbagliato la partenza, non l'ha mai più visto, insomma, è arrivato qui in una forma straordinaria. Diciamo che a parte l'Ungheria, Hamilton sta facendo un campionato veramente sopra le righe, sono 10-1 in qualifica, è qualcosa di massacrante rispetto a chi l'anno scorso l'aveva battuto spesso. La classifica dice Hamilton 227, Rosberg 199, sono 28 lunghezze di distacco, ma c'è questa impressione che Hamilton stia un po' salutando la compagnia. C'è anche questo paragone statistico particolare, oggi è stato l'80° podio per Hamilton come Ayrton Senna. E io continuo a chiedermi dove dobbiamo collocare Hamilton nel podio ideale dei grandi di sempre. Sai, sono quelle domande a cui è difficile dare una risposta, però Hamilton è ben avviato perché è vero che sta dando una macchina decisamente superiore alle altre, però fino all'anno scorso aveva un compagno di squadra che gli stava più o meno alle corte, vicino. Quest'anno il compagno di squadra lo sta massacrando, lui sta trovando quella continuità che potrebbe veramente portarlo a diventare uno dei top 3 piloti di tutti i tempi, assolutamente. Considerato anche che è molto giovane, la carriera è quella, ma anche Vettel. Non si farà distrarre troppo da Ariane e compagnia. E se la Mercedes continuerà ad essere questa, certo gli mancherebbe poi di vincere con una Ferrari, però anche se non ha mai corso con una Ferrari ed è rimasto il più grande di tutti, insomma. Sì, sì. Si può entrare nella leggenda anche senza correre per la Ferrari. So che è difficile da dire da noi italiani però dobbiamo però rendere è così. Questo cosa ne pensi delle parole di Alonso in settimana? Era meglio se andava via prima. Era meglio se stava zitto. Perché se andava via anche 2 anni prima non cambiava nulla. Cioè, l'unica cosa è se fosse rimasto in Mercedes. La carriera di Alonso è costellata da una serie di errori strategici clamorosi. Lui resta un pilota straordinario, però ha sbagliato quasi tutte le scelte della sua carriera, non ultima quella di rompere con la Ferrari l'anno scorso, perché è andato a finire in una squadra dove in questo campionato hanno preso un numero di penalizzazioni impressionante, 55 lui e 50 suo compagno di squadra, e non si vede un futuro roseo per la Honda, credo che tornerà più vicina alla vittoria del mondiale della Ferrari prima della McLaren Honda, quindi lui sicuramente ha sbagliato scelta un'altra volta e dispiace perché è un pilota dotato di una grande classe, soprattutto in gara più che in qualifica. Sì, c'è il sospetto che chiuderà la carriera senza poter raccogliere quello che forse meritava per il talento. Valore, no, è un falso storico, secondo me. È un falso storico. Sì. È un falso storico. Assolutamente. Conta più delle sue scelte che di altro. Nella sua epoca è sicuramente merita di più dei due mondiali che ha vinto, non c'è dubbio. In un minuto Umberto Zappelloni, perché poi siamo in chiusura. Bene Raikkonen, cui invece evidentemente ha fatto bene, ha giovato la notizia del rinnovo per il 2016. Sì, gli rimane sempre un po' troppa sfortuna, perché quello che gli è capitato venerdì sabato in qualifica è proprio sfortuna lì, capita sempre a lui quest'anno, ma io credo non ci fossero alternative valide, meglio aspettare un anno con Raikkonen poi che si liberi qualche contratto importante come può essere Ricciardo, come può essere lo stesso Bottas, come può essere magari la maturazione di qualche giovane tipo Sainz, Verstappen o anche i giovani dell'Academy Ferrari. Quindi meglio continuare, diciamo, non è il problema della Ferrari il secondo pilota. Quindi grazie a tenere le cose così. Grazie. Buona direttore. Ciao tempo. Direttore. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a Umberto Zappelloni, cui abbiamo risparmiato la domanda sul ritorno di Balotelli al Milan. Per una volta che è però uno dei temi della serata, una serata che vivrà intanto sul secondo tempo, ovviamente dei Juventus Udinese che sono andate a riposo sullo 0-0, vivrà poi di tutte le altre partite e soprattutto su Fiorentina-Milan, ma anche Inter-Atalanta, Sassuolo-Napoli, ce ne sono tanti di motivi di interesse. C'è la prima di Carpi e Frosinone in Serie A da seguire con particolare attenzione. Noi ci fermiamo qui, ovviamente per tutta la serata andremo avanti a raccontarvi questa prima giornata del campionato di calcio, poi domani dopo le 14 ci appuntamento sentiamo. Con tutti i convocati. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi, Andrea Roccabella in regia. L'appuntamento con tutti i convocati weekend è da oggi e per sempre domenica prossima dalle 17 alle 19. Ciao. Ciao. A risentirci su questi prossimi schermi. Ciao. Ciao amore mio. In diretta l'ho detto, amore mio.